Quello che è successo sicuramente ha a che fare con gli strascichi di quello che doveva essere non è stato. Per sappiamo che il governo si era impegnato, visto il fallimento del tavolo di trattativa convocato a Roma per il fatto che le aziende non volevano trattare e dare diritti ai lavoratori, quindi il governo si era assunto la responsabilità di fare per legge un intervento che estendesse le tutele. Questo intervento promesso che doveva essere messo dentro reddito e quota 100 non è stato fatto, non c'era l'emendamento, una gravissima mancanza da parte del governo di quelli che erano stati gli impegni presi con noi lavoratori e con noi rider. Tendenzialmente siamo di fronte agli strascichi di questa cosa, siamo di fronte che nonostante il tanto lavoro svolto dai rider per rivendicare i diritti anche nel confronto con le istituzioni, nel confronto con le aziende, non è cambiato niente, anzi le aziende stanno peggiorando le condizioni di lavoro. Le sta peggiorando Globo, le sta peggiorando Del Libero, c'è una tendenza al ribasso perché in assenza di legge, in assenza di norme questo settore è deregolamentato e le aziende ne stanno approfittando per livellare verso il basso stipendi con l'introduzione sempre più vistosa del cottimo. E soprattutto non c'è una risposta su tutta la serie di garanzie e diritti come l'assicurazione INAIL, che è una rivendicazione storica dei rider. Quindi questo è il contesto in cui nascono questi nuovi scioperi. Ce n'è stato uno a Torino dei rider Ciclovo, ce ne sono stati a Bologna, diciamo che non sono mai fermati. Comunque anche quando la finestra dell'emendamento era ancora aperta, i rider del Libero hanno scioperato perché ne sentivano l'esigenza e hanno scioperato anche ieri. Ora questo sciopero è stato su del Libero, ma allo sciopero di ieri sono fermati anche noi rider Ciclovo, Globo, incuriositi un po' dalla protesta, che sicuramente era una protesta che parlava anche delle loro condizioni materiali. Adesso comunque la mobilitazione continua, perché il 1° maggio abbiamo lasciato una giornata di astensione dal lavoro, nuovo disconnettiamoci dallo sfruttamento, con un presidio pubblico alle 10:30 davanti al McDonald's di Via Indipendenza, dove comunque distribuiremo volantini, spiegheremo le nostre ragioni, metteremo in campo anche lì una giornata di rivendicazione dei nostri diritti. Che cos'è che chiedete esattamente? Chiediamo innanzitutto le solite cose che stiamo chiedendo ormai da 1 anno e mezzo qui a Bologna, ossia tutta quella serie di diritti che i lavoratori subordinati hanno, e che i rider, che sono contro l'evidenza considerati lavoratori autonomi, le piattaforme non riconoscono. Quindi parliamo di un salario orario, quindi vieto assoluto del cottimo, e questo salario orario però non deve essere generico, deve essere comunque collegato a quello che prevedono i contratti collettivi nazionali. Noi abbiamo previsto un riferimento e un agganciamento a quello della logistica, perché è il settore più affine per questo lavoro. Chiediamo un'assicurazione INAIL, chiediamo tutta una serie di diritti di base che ad oggi mancano, chiediamo le libertà sindacali, questo è un punto centrale. Per esempio oggi nella piattaforma firmataria della Carta di Bologna faremo un'assemblea sindacale retribuita. Avere strumenti del genere comunque è importante per l'organizzazione del lavoro e dei lavoratori, perché pensiamo che anche se si facesse una legge, comunque degli strumenti di libertà sindacale garantiti e tutelati ci devono essere, perché poi la legge va in ogni caso accompagnata. Quindi chiediamo tutta una serie di garanzie e diritti che oggi non ci sono e che ci dovrebbero essere. Siamo stanchi e stufi di aspettare. E invece da parte del governo non si sono più avute notizie? Allora, gli ultimi contatti di noi associazioni dei riders con il governo sono stati a inizio gennaio. A inizio gennaio il governo aveva preso atto del fatto che il tavolo di contrattazione fosse saltato non per responsabilità dei rider, ma per responsabilità delle piattaforme, che hanno detto che non volevano dare nessun diritto ai rider. Un atteggiamento davvero arrogante, un atteggiamento che noi abbiamo definito estremista, perché chiaramente non volevano trattare. Hanno presentato mesi di trattative di tavolo, le principali piattaforme del food delivery, 2 fogli in cui non dicevano nient'altro, dicevano che volevano definire per legge questo lavoro come autonomo, cosa che tra l'altro anche a livello di Costituzione penso che sia un pelino anticostituzionale, ma era un espediente per dire noi vogliamo evitare cause da parte dei lavoratori. E non davano impegni su diritti sulle cifre del salario, non c'era una cifra in questo documento, e soprattutto chiedevano che qualche diritto si poteva dare non tramite il fatto che i datori di lavoro, cioè le piattaforme, pagassero quello che devono, tramite una defiscalizzazione. Quindi per farci l'assicurazione privata noi rider da soli ci dovrebbe essere una defiscalizzazione a carico dei contribuenti, quindi di tutti i cittadini italiani che pagano le tasse. Ed era evidente che di fronte a questo cinismo, fronte a questa ipocrisia delle piattaforme, sicuramente il tavolo non poteva che fallire. Il governo prendeva atto che questo tavolo era fallito per colpa delle piattaforme e diceva: estendiamo per legge a alcune tutele del lavoro subordinato ai RAI. Non abbiamo mai letto un testo specifico, però avevamo avuto la garanzia che fosse racchiuso in un emendamento che sarebbe entrato dentro il pacchetto reddito e quota 100. Così non è stato, non ne sappiamo i motivi, vorremmo saperli, non sappiamo se è un'incapacità del governo, non sappiamo se ci sono state tensioni rispetto alla maggioranza di governo rispetto a questo punto, non sappiamo se abbia influito anche una cosa che abbiamo scoperto e che ci ha abbastanza raccapricciato, cioè che Deliveroo, questa multinazionale del food delivery, ha finanziato la Casaleggio Associati, quindi un'associazione molto legata al Movimento 5 Stelle. Sicuramente Deliveroo non l'ha fatto gratis, l'ha fatto per evidenziare un interesse a condizionare il processo legislativo, ma noi provocatoriamente chiediamo, ma queste multinazionali del food delivery, anziché pagare società vicine a partiti di governo per avere un vantaggio in termini di legge, perché questi soldi non li spendono per garantire i diritti ai lavoratori? Mi sembra il minimo di civiltà del lavoro che ci dovrebbe essere in un paese civile. Soprattutto chiediamo al Movimento 5 Stelle, al governo, di fugare a questo punto dei nostri dubbi, dei nostri sospetti sulla correttezza e le volontà politiche prese. C'è un conflitto di interessi in corso che impedisce l'estensione dei diritti riders? Bene, fughino i sospetti, visto che chiedono giustamente anche su altri versanti una legge sul conflitto di interessi, bene, fughino i sospetti del loro conflitto di interessi. Ora il governo con Di Maio, dopo le mobilitazioni dei lavoratori, ha annunciato che questo decreto rider entrerà in provvedimenti futuri, ma stiamo parlando di provvedimenti futuri come quello sul salario minimo, che ha bisogno sicuramente di tantissimo tempo prima di essere approvato, non si sanno i tempi, si rischia un nuovo rinvio alle calende greche. Per noi l'unico strumento per garantire diritti ai rider esiste e si chiama decreto legge subito, altrimenti è campagna elettorale.